qualche bambini. E corrono di sotto per andare a scuola. Sveglia che sono le 8. Io sono già in cucina, lavoro su fornelli. Senti quanti profumi, dolci appetitosi, facciamo colazione. Che dici? E poi lo pusciamo. Facciamo un giro certo, ritroviamo il guardaroba. Starmi le giornate, passo al sesto canale. Ma che ora fai cartoni, torniamo un po' bambini. Dici che non ci riesci, che sei superficiale, non è nelle tue corde. E dimmi che dove fare, da non cambiare canale, non rompere i coglioni.